La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 29 secondi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar @radio24.it, e per intervenire oggi in diretta, come sempre, il numero di telefono lo conoscete, ma lo ripeto, 800240024, per le opinioni con gli sms 349 238 6666. Oggi prendiamo spunto da due cose. Il primo è il riepilogo degli aumenti, ripeto aumenti, i dati smentiscono che dice che le tasse scendono, degli aumenti di imposta e di spesa pubblica anche nel 2015. Ieri Confcommercio ha pubblicato un resumé, una sintesi di quanto sono aumentate le tasse locali e centrali e di come è aumentata la spesa negli anni alle nostre spalle. È necessario ogni tanto ribadire le aride, nude cifre al di là delle propagande. E questo è un primo spunto. Il secondo spunto invece è un libro che io invito tutti coloro che sono sensibili a questo tema, ma anche gli altri che magari sono scorati o sono risolutamente contrari a leggerlo. Il titolo dice tutto, perché il titolo di questo libro, che a me è piaciuto, ma non vuol dire niente, io sono minoranza, il titolo del libro è Privatizziamo, con un punto esclamativo, e per l'editore Rubettino, costa 12 euro per 185 pagine, e l'autore è un imprenditore, Massimo Blasoni, che sarà nostro ospite oggi. Devo dirvi che mi è piaciuto perché rispetto a ciò che la destra, non mi aspetto grandi privatizzazioni dalla sinistra, lo hanno dimostrato gli anni, al di là di quelle obbligate nel 92-93, fatte in fretta, fatte anche male, da Telecom Italia alle banche. Ma detto tutto questo, come si vede, non c'è legittimamente, giustamente, molto da aspettarsi dai governi sinistra e privatizzazioni, compreso il governo Renzi, che su questo, lo sapete, ha quotato Poste. Non è una privatizzazione perché non ne ha ceduto il controllo, non si vuol cedere più il controllo di nulla. Sulle partecipate locali vi ricordo che le proposte di Cottarelli, che era di passare a 1000 da circa 10.000 attuali, sono state messe nel cassetto. Anche dopo aver letto il testo del decreto legislativo in attuazione della delega Madia su questo tema, si capisce dal testo che si chiuderanno solo le scatole vuote e quelle che hanno più dipendenti, cioè più amministratori che dipendenti, ma per il resto, sia per le grandi che per le piccole, tutto resterà come prima. Quindi di fatto noi le privatizzazioni le abbiamo messe nel cassetto, perché oramai l'aria che tira a destra come a sinistra è che lo Stato deve essere più forte, anzi grandi polemiche contro l'Europa, ci mancherebbe altro. Ieri avete sentito forse le sintesi o i resoconti dello scontro in Parlamento tra Monti e Renzi. La sintesi di Renzi è che le banche italiane devono rimanere libere di avere 400-500 miliardi di titoli pubblici in pancia, e dall'altra parte lo Stato deve continuare a essere libero di aiutarle, perché no al bail-in, no alla BRRD, e in questo una mano lava l'altra tra banche e debito pubblico. Naturalmente ai clienti delle banche, come ai contribuenti, resta solo pagare e stare muti e zitti. A me questi tre pilastri mi sembrano i pilastri del declino italiano, ma naturalmente io sono in minoranza. Allora, questo libro, siccome parte da premesse molto ruvide, per così dire, mi è piaciuto perché invece rilancia un'idea che è morta anche in quello che resta della destra italiana, che si sfarina a Roma sotto gli occhi di tutti. Credo che Bertolaso faccia la cosa migliore a tornare a occuparsi della nipotina malata, lo dico con grande rispetto agli sviluppi di queste ore. Ma al di là di tutto, invece, il libro di questo imprenditore Massimo Blasoni pone al centro la necessità di tornare per così dire radicali, per chi ci crede in queste cose, e continuare una battaglia al di là del fatto che la destra che vent'anni fa nacque in Italia è da lunghi anni in agonia ed è finita dal punto di vista di quello che ci può dire politicamente. Bisognerà vedere nel frattempo poi cosa nasce alle elezioni, al turno amministrativo, alle prossime elezioni politiche. Prima di presentarvi l'ospite ed interrogarlo con qualche domanda, perché ho sentito di spiegare da dove nasce questa sua lucida follia minoritaria di rilanciare un programma così impegnativo, alcune cifre però ricordate ieri da Confcommercio. Allora, ricordiamo innanzitutto la spesa pubblica nel nostro paese. Nel nostro paese la spesa pubblica nel 2015 ha chiuso al 50,8% del PIL. 50,8%. Tanto per avere un'idea, in Germania nel 2015 è al 43,6%, quindi ci sono 7,2 punti di PIL ogni anno di spesa pubblica in più rispetto ai famigerati cattivi tedeschi. In Spagna è al 43,4%, quindi su una percentuale di poco inferiore a quella tedesca, quindi rispetto agli spagnoli noi paghiamo sul nostro PIL ogni anno 7,4 punti di PIL di tasse in più. Tanto per avere un'idea, vi ricordo, è facile, significa che noi paghiamo 110 miliardi di euro in più. Se pagassimo alla spagnola sarebbero 110 miliardi di entrate in meno per lo Stato. Ecco, questa è la spesa pubblica. Vi ricordo che nel 2007 era al 46,8, adesso siamo al 50,8, quindi la progressione è chiara. Quanto alla dichiarazione che il Presidente del Consiglio, il PD, ripete incessantemente, le tasse stanno scendendo, peccato che i dati ufficiali dicano il contrario da questo punto di vista. Cioè, non è vero, non so che cosa dirvi, perché fosse vero uno direbbe ah sì, è esattamente come dice il governo, ma non è così, perché se guardiamo alla sola pressione fiscale, non al totale delle entrate pubbliche, se guardiamo solo la pressione fiscale, è cresciuta anche nel 2015, di pochissimo sul 2014, per carità, visto che siamo al 43,7% rispetto al 43,6%, ma continua a essere in salita, non in discesa. Sapete bene che il governo dice che questa cifra, che pure è ufficialmente obbligato a fare, perché si tratta di redigere i bilanci secondo i criteri comuni e condivisi di Eurostat, in realtà non incorpora gli 80 euro, ma gli 80 euro sono una spesa e non un taglio alle tasse, secondo i criteri condivisi con cui si redigono i bilanci. Comunque sia, stiamo parlando, come si vede, di una cifra impressionantemente elevata e in crescita, per essere chiari. Se andiamo a vedere quale è la distribuzione delle imposte tra centro e periferia, vediamo che da questo punto di vista la tassazione nei 10 anni alle nostre spalle dei tributi centrali e dei tributi locali è andata così. Cioè, i tributi locali nel 1995 erano pari a 29,7 miliardi di euro. Nel 2015 sono stati pari a 103,4 miliardi di euro. Ci sono 2,8 miliardi di euro in meno che sono rispetto al 2014, però resta il fatto che tra il 1995 e il 2015, come vedete, c'è un aumento pazzesco da 29,7 miliardi a 103,4. Come sono andati invece i tributi locali, i tributi centrali? Nel 1995 ne abbiamo pagati per 228,4 miliardi, nel 2015 ne abbiamo pagati per 393 miliardi. Cioè, in altre parole, i tributi locali, fatto base 100 il 1995, sono aumentati in 10 anni del 348%, mentre i tributi centrali sono aumentati in 10 anni del 172%. Voi credete davvero che questo sia indipendente dalla bassa crescita italiana che ci trasciniamo in tutti questi anni, che sia solo effetto del cattivo mercato e della cattiva Europa? Io credo di no, risolutamente. Però questa è la mia opinione, come è noto. Allora, ci ha raggiunto nel frattempo Massimo Blasoni. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, lei è un imprenditore di prima generazione e ha costruito un'impresa. In che ramo, con quanti dipendenti e quanto fattura? Ma in questo momento fattura intorno ai 100 milioni di euro e ha 1.800 dipendenti. Quanto ci ha messo per farla? Che età ha cominciato? ci ho messo 20 anni, quindi ci ho messo parecchio tempo, ma sono partito con un compagno di classe veramente senza un euro. La difficoltà maggiore nel costruire un'azienda oggi, ed era la stessa, la situazione identica era 20 anni fa, è evidentemente quella di rapportarsi con una burocrazia invasiva e con uno Stato che ha allargato il suo perimetro eccessivamente. La sensazione è che sia estremamente difficile oggi fare impresa in Italia, ce lo dicono tutti gli indicatori. Abbiamo provato a mettere a confronto, una digressione rapidissima, da 2 anni anche sostengo un centro studi che si chiama Impresa Lavoro, con un board scientifico di primo livello, e abbiamo cercato di mettere insieme un po' di ricercatori italiani per ragionare sui temi del lavoro, dell'impresa, della burocrazia. Allora, fatta questa digressione, la sensazione è, abbiamo provato a mettere, anzi dicevo a confronto, la situazione di un imprenditore italiano e di un imprenditore tedesco e di un imprenditore inglese. Beh, i nudi numeri in maniera eclatante evidenziano quanto sia difficile fare impresa in Italia. Una concessione edilizia in Italia, lo dice Doing Business, non lo dico io, richiede mediamente 233 giorni, in Germania sono 96, in Inghilterra 87. La pubblica amministrazione, lo sappiamo tutti, ma pari per tutto, da noi paga con tempi rilevantissimi e deve ancora 70 miliardi agli imprenditori, ma i nostri 144 giorni di attesa, quando dico gli imprenditori forniscono lo Stato, diventano meno di un mese in larga parte degli altri paesi. E poi c'è il tema fiscale complessivo e tipico delle aziende. La total tax rate nel nostro paese, cioè l'insieme delle imposte che paga l'imprenditore, lo dice sempre Doing Business, è del 64%, oltre al 64%, in un importo nettamente superiore a quello, che so, tedesco del 48,8% o del Regno Unito del 32%. Ma un attimo solo, le voglio dare anche un altro dato che ci ha colpito moltissimo. Abbiamo provato a fare questo giochino. Abbiamo provato a, utilizzando dati della Commissione Europea, a raffrontare non solo quante tasse si pagano in Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, questo è noto, già lo sapevamo, ma abbiamo provato a fare questo ragionamento. Ma se gli italiani, adesso prescindiamo dagli imprenditori, pensiamo al complesso dei nostri concittadini, se gli italiani pagassero le tasse come i tedeschi, quanto in meno pagherebbero? Allora, proviamo a spiegarlo. Da noi, l'ha detto lei prima, le imposte raggiungono il 43,7% del PIL. Dato europeo, in Germania si paga il 39,4%. Beh, se gli italiani pagassero le tasse come i tedeschi, cioè avessero le stesse aliquote dei tedeschi, pagherebbero oltre 54 miliardi in meno. Ma il confronto diventa eclatante quando si fa con Spagna e Regno Unito. In Spagna le tasse sono il 34% contro il nostro 43,7%, ripetiamolo, e questo vuol dire che se gli italiani pagassero le tasse come gli spagnoli, ne pagherebbero 145 miliardi in meno, cifra enorme. Nel Regno Unito le imposte sono il 34,3% e in questo caso avremmo 138-139 miliardi in meno. Non azzardo il paragone con gli Stati Uniti, perché ci farebbe arrostire. Allora, la interrompo solo per chiedere, molti dei suoi colleghi ormai nella piccola impresa, non solo nella piccola impresa, moltissimi italiani si stanno convincendo che in realtà la camicia di forza sono le cattive, sbagliate regole europee, i cattivi tedeschi che ne approfittano e così via. Ci sono fior di miei colleghi anche in questo gruppo editoriale, io non la penso come loro, a dire la verità. Io quando vedo che la politica italiana, insieme ai vertici bancari italiani e insieme ai vertici di molte associazioni di categoria imprenditoriale, difendono le tante cattive banche locali in cui una mano lava l'altra, mi vengono i brividi, perché mi sembra l'ultima trincea della resistenza dei poteri corti italiani. Ne approfitto per dire agli amici che ascoltano da Vicenza che anni fa, quando dirigevo un quotidiano economico finanziario, fior di azionisti e di presidenti e manager della Popolare di Vicenza chiamarono a un certo punto il mio editore dell'epoca dicendo: quando è che la smetti di far scrivere sto Giannino ai suoi giornalisti criticando i nostri bilanci, quello che la nostra radiosa banca fa in tutta Italia, in Sicilia? Noi abbiamo fatto un'inchiesta su questo, cioè in cose che ci sembravano non attinenti con il core business della banca. Allora vorrei rivederli tutti in faccia ora, cari azionisti della Popolare di Vicenza, che il vostro titolo, che fino a 2 anni fa avete fatto ben 2 aumenti di capitale con un titolo che voleva 62,5 euro fissato dal Consiglio di Amministrazione, ovviamente, Da ieri sera il vostro titolo, con un'altra delibera, con il diritto di recesso in vista dell'aumento di capitale ulteriore che dovrete sottoscrivere quotandovi poi in borsa, il vostro titolo adesso vale il 90% in meno, 6,3 euro. Ecco, se all'epoca aveste un pochino dato retta a chi criticava la banca invece di silenziare chi la criticava, forse oggi non avreste in tasca un 90% in meno. Che datemi retta, quando arriverà la quotazione, la fusione, ohimè, credo che scenderà ulteriormente, non lo dico con, se non con amarezza, però io vedo molto di questo all'interno delle classi dirigenti italiane, nell'indicarvi, cari ascoltatori, cari imprenditori, cari lavoratori dipendenti e autonomi, il nemico straniero, mentre il più dei guai sta nel nostro paese. Allora, la mia domanda a Blasione è quella di spiegarci come mai lei, che pure dedica in questo libro anche un capitolo alle cattive regole europee, eccetera, eccetera, eccetera, dice qui il problema di fondo, euro o non euro, in ogni caso noi dobbiamo rivedere il perimetro dello Stato e privatizzare in profondità tantissime cose. Perché lei crede ancora in questo, visto l'esperienza da destra ai nostri 20 anni alle spalle? La risposta me la dà dopo un minuto di interruzione per il traffico stradale. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:47 primi. Abbiamo ricordato a tutti le cifre reali, ufficiali, dell'aumento delle entrate come della spesa nel nostro paese ancora nel 2015, e abbiamo un ospite, l'imprenditore Massimo Blasoni, che oltre ad animare da 2 anni un centro studi, si chiama Impresa Lavoro, cercate la pagina, viene aggiornata ogni giorno con studi e articoli di impronta nettamente mercatistica e liberale, quindi siamo delle minoranze, lo sappiamo perfettamente, ma stiamo partendo da questo suo libro pubblicato per Rubettino, sono 185 pagine, il titolo dice tutto, privatizziamo. E io ho chiesto a Blasoni, ma come mai con la destra a pezzi e sfarinata, con la sinistra che nella privatizzazione non ha mai creduto, con molti italiani, sempre più milioni, che dicono ma no, è l'Europa il problema, non rivedere lo Stato, ci vuole più Stato, anzi, lei rilancia invece il tema delle privatizzazioni. Cos'è che la rende fiducioso? Ma più che fiducioso mi fa, come dire, necessariamente propugnare questa tesi. Cioè, lo Stato che opera, lo Stato che vuole realizzare è inefficiente. Si parte dall'esperienza empirica, quando, come dire, ci si confronta diuturnamente con la propria attività economica, ma poi si arriva ai macronumeri. Il nostro Stato è cresciuto costantemente. Nel 75 avevamo una pressione fiscale del 20% sul PIL, siamo arrivati al 43,7% che dicevamo prima. In realtà tutto questo avviene perché le strutture dello Stato tendono a proliferare, a incrementarsi, senza che i cittadini ne abbiano esattamente contezza. Mi lasci dire a chi è in ascolto che al 43,7, che sono la somma imposte e contributi, dovete poi sommare, cari ascoltatori, il totale poi delle altre entrate pubbliche, ce ne sono anche altre, di ordine patrimoniale, certo, di gestione finanziaria e così via, e quindi arriviamo al 48% del PIL, al 48% del PIL. Allora, diceva, poi, i numeri sono questi. Certo, poi mi faccio aggiungere, dobbiamo anche fare delle valutazioni su quella che è la pressione effettiva reale, andremo oltre 50. Esatto. Ma andiamo al dunque. E il dunque è questo: lo Stato non è efficiente quando realizza. Quindi per me privatizziamo non è semplicemente esplicitare l'esigenza della cessione delle partecipazioni statali, della riduzione delle partecipate, ma è proprio, come dire, provare a ipotizzare una società costruita con regole un pochino diverse e più liberali. La società che conosciamo non è, l'ordine sociale che conosciamo non è necessario, è frutto di alcune scelte che nel tempo hanno visto enormemente crescere lo Stato. Allora, che cosa propongo, cercando di essere assolutamente sintetico? Ma propongo che innanzitutto non vi sia differenza tra lo status dei lavoratori pubblici e di quelli dipendenti. Cioè, qualcuno ci deve spiegare per quale ragione l'impiegato dell'anagrafe o l'impiegato di un'azienda debbano avere regole del gioco completamente diverse. E anche il Jobs Act, dice il governo, non supera questa distinzione. Assolutamente non la supera. E allora proviamo a immaginare oggi come deve agire un sindaco. Un sindaco che vuole amministrare il suo comune si troverà nei fatti, ognuno di noi ha verificato, o meglio, come dire, ha indirettamente esperienza di queste cose, non sarà in grado di trasferire personale da un ufficio all'altro, non è in grado di assumere, di licenziare, di premiare il merito, e anche il direttore generale dell'azienda sanitaria, e anche... Allora, perché non possiamo lei immaginare... è stato anche consigliere comunale, quindi insomma l'ha vista dal di dentro la pubblica amministrazione. Consigliere regionale, sì. Ma quindi voglio dire, proviamo a immaginare una struttura dell'amministrazione pubblica che invece consenta di operare come un'azienda privata. Cioè, l'imprenditore e il sindaco svolgono due ruoli diversi, ma una volta il consiglio comunale il sindaco hanno deciso, perché l'operatività deve essere così lenta, farraginosa? Da un lato. Dall'altro, privatizzazione intesa anche come riduzione dell'attività dello Stato nell'ambito dei servizi pubblici. Mi spiego. Immagino due grandi categorie. Servizi pubblici per i quali noi riceviamo in correlazione diretta quanto diamo. Ecco, se dovessimo immaginare le pensioni come la restituzione del nostro monte contributivo, cioè riceviamo quello che diamo, allora dico, per servizi come questi si potrebbe pensare a una privatizzazione vera. Non capisco perché devo dare i miei soldi all'INPS quando li gestisce così male. Solo un appunto, l'INPS ha oggi 22.500 immobili per un valore che è stato stimato in 3.200.000.000, eppure riesce a rimettere nella gestione degli immobili più di 100 milioni l'anno. Quindi è evidente che gestisce male. Allora, ricordiamo a chi ascolta che una gestione, come in molti paesi anche obbligatoria, di un pilastro privato restituirebbe, può essere poi un fondo a contribuzione garantita fissa o variabile nel tempo o a prestazione garantita, si dividono in queste due grandi categorie, ma allora sì che ciascuno sarebbe garantito nel diritto che sono i suoi contributi a formare il montante che poi gli viene restituito, naturalmente avvalorato nel tempo a seconda di come è investito e da criteri che sono fissati rispetto all'andamento del PIL eccetera eccetera, ma i vostri contributi resterebbero la base della vostra pensione. Col sistema attuale pubblico non è così, perché è un sistema a ripartizione, quindi i contributi versati servono a pagare le pensioni in essere di chi magari aveva un regime previdenziale diverso, retributivo, apparteneva a un fondo retributivo a gestione speciale molto garantita che moltiplicava il montante rispetto ai contributi versati, e tutto questo lo fanno giovani che non avranno le pensioni retributive, non hanno la continuità contributiva delle generazioni precedenti, ma sono loro a pagare. Questo lo ripeto perché tutti se lo dimenticano sempre. Mi scuso delle interruzioni. Con due elementi da aggiungere brevissimamente, che da un lato è bene che gli italiani lo sappiano, l'INPS pesca ogni anno nella fiscalità generale perché comunque i contributi non sono bastevoli a pagare pensioni spesso proporzionate rispetto ai versamenti, e che la riforma Fornero si regge su due presupposti per il futuro: che cresca la base occupazionale da un lato e dall'altro che ci sia crescita per almeno 1,5% l'anno nel paese nei prossimi 20 anni. Non dovessero integrare questi due presupposti, occorrerebbe una nuova enorme e attualmente non si realizzano. Esattamente. Allora, torno al dunque. Quindi alcuni servizi pubblici non sono più pubblici, ma il cittadino che paga meno tasse, nella mia ipotesi, li gestisce direttamente. Scelgo io a chi dare i denari per la mia pensione, a chi riuscirà ad avvalorarli di più. Però ci sono anche altri servizi che, comprendiamo, non possono essere gestiti, almeno secondo me, lasciando, come dire, spazio a un liberismo assoluto. Mi spiego. Sanità o infrastrutture, per motivi diversi, richiedono il concorso di tutti. Se io mi ammalo una volta e un altro cittadino 10, non posso immaginare che io paghi una e lui 10. Però, tenuto conto di un contesto in cui potrebbe essere ancora lo Stato ad acquistare i servizi attraverso il gettito tributario, cioè banalizziamo, i cittadini pagano le tasse ed è lo Stato a garantire questi servizi, ma perché deve materialmente gestirli? Se lo Stato gestisce male, se lo Stato ha scarsissima competitività, livelli di assenteismo nell'impiego pubblico che sono doppio rispetto a quelli del privato, ma soprattutto in ragione delle regole più che delle persone, una bassissima competitività, una bassissima produttività, allora gestisca il privato questi servizi. Quindi servizi pubblici acquistati dallo Stato, ma non necessariamente gestiti dallo Stato. Io mi chiedo questo: se ognuno di noi non ha avuto la percezione, andando, come dire, a qualche sportello pubblico, non ha avuto la percezione di una bassa produttività. Questa non credo che sia né demagogia né una vulgata priva di fondamento. No, in realtà lo Stato produce lentamente e male, e molto spesso tende a produrre disavanzi. Io, guardi, le faccio un esempio anche da imprenditore, perché altrimenti corriamo il rischio di fare solo teoria o esprimere macronumeri che sono veri ma che poi vanno inverati anche dall'esperienza. Io realizzo, costruisco e gestisco residenze sanitarie in Italia. Beh, non riesco a capire una cosa: quest'anno ho prodotto utili importanti per più milioni che sono stati reinvestiti, riesco a farlo senza alcuna contribuzione pubblica e mi trovo di fronte, come dire, realtà gestite dallo Stato che normalmente pesano, quando sono gestite dallo Stato, sui bilanci dei comuni anche in maniera ragguardevole. E il motivo non è legato alla qualità né legato al prezzo per gli utenti, il motivo è legato alla bassa competitività, alla bassa produttività della gestione pubblica, ma è ovvio. Nessun imprenditore assumerebbe persone se non fosse necessario, e nessun imprenditore andrà a acquistare al doppio o al triplo del loro valore i prodotti che gli servono. Allora, a me tocca dire a chi è in ascolto. Allora, ci sono capitoli per ogni settore della vita pubblica, ecco, dalle gestioni, ripeto, di una sanità che rimane universale da garantire, però con gestioni private, agli immobili pubblici, agli altri servizi pubblici, il trasporto locale e così via. In questo libro, ve lo ricordo, Privatizziamo, Rubettino, editore di Massimo Blasone, che è stato con noi. Chiudo però ricordandovi che l'OCSE stamattina ha abbassato la crescita attesa dell'Italia da 1,4 all'1% per il 2016. Questa è la amara realtà, e diffidate di chi fa propaganda contraria. Continuate con la 24, appuntamento domani alle 8:15 con me, Alessandro.